nuove strade prenderò, ma lo so che non cambiano. E se altre stelle coglierò, già lo so che non brillano. Siamo solchi sul pendio, oscuro oblio, cuore in bilico, sguardi vuoti nel brusio di un muto addio che si parlano. Siamo come un fiume che non passa e scorre via di fretta dove non si arriva mai. Siamo come il vento che ci contra con la sua carezza, tutto si rincorre in noi. Se mai indietro tornerò, già lo so, sarai tu il sentiero. Siamo in fondo un palcoscenico.